Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Genova è il 20 luglio 2001. La città si sveglia sotto un cielo sgombro di nuvole. La giornata si preannuncia calda già dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si riuniranno gli 8 capi di Stato dei paesi più industrializzati del mondo. La città è blindata ormai da giorni. Sopra la città volano gli elicotteri della polizia. 20.000 tra poliziotti e carabinieri sono preposti alla protezione della zona rossa, un'isola delimitata da grate alte 5 metri, creata per garantire la sicurezza e il tranquillo svolgimento del vertice. 9 manifestazioni di protesta sono autorizzate. Partono da altrettante piazze tematiche. 9 manifestazioni confluiscono verso il centro di Genova da altrettante piazze tematiche. Noi seguiremo solo quella delle cosiddette tute bianche. Proprio da quella visuale partiranno gli scontri che porteranno alla morte del giovane dimostrante Carlo Giuliani. Vestiti di nero, accento straniero, canottiera, felpa e cappuccio, si muovono in gruppi di 15-20 persone. Fin dalla mattina, a partire dalle 11.30, i Black Bloc mettono a ferro e fuoco il centro della città. Indisturbati, rovesciano auto e le incendiano. Lanciano sassi contro le vetrine, distruggono banche e saccheggiano supermercati. Le riprese dei numerosi cineoperatori professionisti e dilettanti li riprenderanno a pochi metri dai reparti della polizia, senza che vi siano interventi immediati di ordine pubblico. I Black Bloc si concedono alle telecamere inscenando una danza di guerra, sventolando bandiere nere al rullo dei tamburi. Sono le 13.30, 10.000 tute bianche partono dallo stadio Carlini di Genova. Abbiamo pensato di dividere in blocchi il gruppo e la manifestazione intera. Iniziamo a capire come sarà predisposta la manifestazione. Davanti al corteo ci saranno il gruppo di contatto con le forze dell'ordine e con le istituzioni. Dopo questo gruppo di contatto ci sarà un gruppo che porterà strumenti della fantasia, quindi organismi geneticamente modificati, facce di maiali rappresentanti i grandi otto. La manifestazione è autorizzata fin quasi alla stazione Brignole, ma il corteo vuole entrare nella zona rossa. Alle 15 incontra le prime devastazioni dei Black Bloc all'altezza di via Tolemaide. Teniamolo a mente, perché è proprio in questa strada che avverranno gli scontri più cruenti. Per la prima volta, i carabinieri sbarrano la strada al corteo lanciando lacrimogeni. La cosiddetta testuggine di protezione dei No Global all'inizio regge l'urto, ma è poi costretta ad arretrare. Quel giorno a Genova la nostra Cristina Carpinelli racconta in diretta gli scontri. L'incursione è stata respinta con gli idranti dalla polizia, intanto Genova è completamente sotto assedio. In questo momento i manifestanti, gli autonomi, stanno cercando di raggiungere Piazza delle Americhe. C'è stata già una carica della polizia, hanno sparato lacrimogeni, c'è una situazione molto tesa, soprattutto la zona di Piazza Giacometti, dove un migliaio di persone hanno fatto ripartire lo scontro. C'è un supermercato, tutti i negozi distrutti, gente che entra per rubare. Questa non è l'anima del Genoa Social Forum, questi sono cani sciolti da cui il movimento si dissocia. Anarchici, autonomi, i giornalisti entrano nelle zone gestite da queste persone solo senza videocamera e macchina fotografica. Il corteo delle tute bianche è preceduto di alcuni metri da un gruppo di contatto con il compito di favorire il dialogo tra manifestanti e forze dell'ordine. Ma qualcosa non va come previsto. Paolo Cento, dei Verdi. Il gruppo di contatto formato da parlamentari, amministratori locali, rappresentanti dei movimenti, nella giornata del 20 luglio, in particolare per noi che ci trovavamo nella manifestazione che partiva dallo stadio Carlini, non ha mai avuto alcun modo di dialogo e di confronto con le forze dell'ordine. Solo successivamente agli incidenti e alla morte di Carlo Giuliani ci siamo ritrovati sotto la questura, abbiamo avuto in quel caso un incontro con i vertici di polizia. Dopo la prima carica delle forze dell'ordine, il corteo arretra, si organizza e si dirige nuovamente verso la zona rossa. Proprio in questo momento stanno... guardate, forse riuscite anche a sentire il rumore degli scontri. Scusate, hanno sparato anche dei lacrimogeni. Stanno usando anche gli idranti. La situazione sta completamente degenerando. Via Tolemaide ora è sgombra. Ma dopo un centinaio di metri, i manifestanti incontrano nuovamente il presidio dei carabinieri. E per la seconda volta, scoppiano gli scontri. Il sospetto è che alcuni violenti abbiano trovato protezione all'interno del corteo. Lo sostiene Filippo Ascerto, di Alleanza Nazionale, che ha assistito agli scontri dai monitor della caserma dei carabinieri di Forte San Giuliano. La verità è un'altra, che questi violenti, dopo le incursioni, sono rientrati all'interno del corteo e sono stati lì omologati. E come si fa a individuare i colpevoli o a frenare i violenti quando vengono protetti da un intero corteo? Chi dice che l'ordine pubblico poteva essere gestito in modo diverso? Oggi, analizzando a fondo le cose, possiamo anche dire che si poteva organizzare qualcosa di diverso, come ad esempio l'antiguerriglia, perché chi fa guerriglia non può essere affrontato con i sistemi da ordine pubblico. Dopo la seconda carica, il corteo ha perso la sua unità. I manifestanti si disperdono nelle vie laterali. Sono le 16:30. Giuliani si unisce al gruppo dei dimostranti. Iniziano le cariche isolate di pochi blindati dei carabinieri, ma la manovra risulta controproducente. I mezzi si espongono alla reazione dei manifestanti. Un blindato viene abbandonato e diventa preda dei dimostranti che lo incendiano. Il corteo, ricompattatosi, tenta la terza discesa verso la zona rossa, ma percorre solo pochi metri. Questa volta è la polizia, proveniente dalla stazione Brignole, a respingerli frontalmente con blindati e idranti che sparano acqua urticante. I manifestanti arretrano, ma la strategia delle forze dell'ordine cambia. Dalle vie laterali i carabinieri caricano il corteo con lo scopo di frantumarlo, ma l'azione non ha successo e provoca una violenta reazione. Tra poco, dopo la viabilità, torna il racconto del giallo e nero sui fatti di Genova. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Genova, 20 luglio 2001, poco dopo le 17:20. La situazione è incandescente. Due defender restano isolati. Su uno di questi si trova il carabiniere di leva Mario Placanica. I mezzi, inseguiti dai manifestanti, arretrano fino a Piazza Alimonda. Il defender con a bordo Placanica rimane incastrato tra un muro e un cassonetto riempito di pietre. Nella piazza, cuore della Genova residenziale, si scatena l'inferno. La camionetta è circondata. I manifestanti sfondano i finestrini con travi e spranghe. Uno di loro, Carlo Giuliani, raccoglie da terra un estintore rosso e sembra lanciarlo verso il defender. Il carabiniere Placanica è appena stato colpito da una pietra. Terrorizzato, la vista annebbiata, la faccia sporca di sangue. Io, vedendo che circondavano la macchina, volevo, diciamo, un po' allontanare la gente. E a quel punto io intimai, gridai di allontanarsi perché sennò avrei sparato. Alla mia destra, alla mia sinistra c'era gente, dietro c'era gente. Allora io presi la pistola e sparai due colpi. A Genova sono le 17:25. Due colpi di pistola. Carlo Giuliani cade a terra. Il defender dei carabinieri, assediato dai dimostranti, fa marcia indietro e passa sul corpo ormai senza vita del giovane. Un poliziotto rincorre un manifestante e gli grida che è lui l'assassino. Bastardo! L'hai ucciso, tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, con tuo sangue! Con tuo sangue! Radio 24 è in diretta da alcune ore. Da Genova, il racconto dei nostri inviati. Cristina Cattinelli, dove sei? Allora, io adesso sono in Corso Gastaldi, sotto i portici di Corso Gastaldi. Sono arrivate tantissime ambulanze in questo momento a raccogliere almeno 10-15 ragazzi feriti, alcuni veramente in modo grave. Ce n'era uno che aveva completamente perso conoscenza, cioè tantissimo sangue. Sotto i portici ci sono persone che stanno piangendo, la manifestazione di fatto è finita, però queste sono le conclusioni dell'intera giornata che abbiamo raccontato assieme. Adesso tutto ecco, rimani in linea con noi, perché sentiamo Andrea Ferri. Due pattuglie della polizia si sono praticamente ritrovate in mezzo ad un gruppo di anarchici, tute nere, la definizione di questo gruppo non è chiara, gruppo che nell'arco della giornata aveva messo a ferro a fuoco quella zona di Piazza Tommasio. Ebbene, una delle due volanti è riuscita a forzare, per così dire, questo assedio e a fuggire. Ingabbiata dai manifestanti, invece la seconda volante è stata presa a calci, ripeto, secondo una ricostruzione piuttosto attendibile dei fatti, addirittura ci sarebbe stato un tentativo di ribaltamento della stessa. A quel punto un poliziotto avrebbe estratto la pistola d'ordinanza e ha fatto fuoco a distanza ravvicinata, uccidendo uno degli assalitori. È accaduto meno di mezz'ora fa nei pressi di Piazza Alimonda, una zona già sconvolta sin dalle prime ore del pomeriggio dai disordini, dagli incidenti, dalle cariche della polizia, dal saccheggio dei negozi. La notizia, ripeto, è confermata anche dalla questura, anche se dal palazzo di Via Diaz, sede del comando della polizia genovese, al momento non elaborano una ricostruzione ufficiale. Si tratta dunque di un giovane, intorno ai 20 anni, questo è la conferma poco fa sull'agenzia ANSA. La scena viene ripresa con telecamere e macchine fotografiche da molti punti di osservazione. Il fotografo Marco Lauria si trova a pochi metri dal luogo in cui viene colpito Carlo Giuliani. Mi ricordo quando ho scattato la foto, anzi la sequenza di foto degli incidenti di Piazza Alimonda, io ero arrivato verso la fine di Via Ilice, che è lunga 50-60 metri, e nel momento in cui scattavo quelle foto stavo direi circa una cinquantina di metri. Ho riconosciuto me stesso di spalle diverse volte dalle immagini che ha trasmesso Rai 3 del fatto che sia stato effettivamente io a passare lì davanti. Ho reso una testimonianza alle autorità. Le manifestazioni proseguiranno anche il 21 luglio. Genova è ormai in preda alla violenza. Dalle prime ore del mattino arriveranno oltre 300.000 persone. E ancora le infiltrazioni dei Black Bloc scateneranno la reazione delle forze dell'ordine anche contro inermi manifestanti. Pochissimi responsabili degli scontri saranno successivamente assicurati alla giustizia. Alzate le mani tutti! Cercate di dire a vostri colleghi, non posso passare l'ambulanza, per favore, ma chi si prende, per favore? Fatela! Alle 23 del 20 luglio 2001 Mario Placanica viene interrogato per la prima volta. Viene aperta un'inchiesta per omicidio affidata al pubblico ministero Silvio Franz. Iniziano i rilievi dei periti balistici. I punti controversi sono i fori di entrata e di uscita del proiettile, il secondo molto più piccolo del primo, il numero delle armi che hanno sparato e la distanza tra l'arma e la vittima, fondamentale per stabilire la gravità della minaccia rappresentata dal ragazzo con l'estintore in mano. Nella stessa intervista al TG5, Placanica afferma di aver sparato verso l'alto. Nel febbraio 2002 vengono nominati i consulenti del pubblico ministero. Sono il medico legale Carlo Torre, specializzato in residui di sparo, l'esperto audiovisivo Nello Balossino, i balistici Paolo Romanini e Pietro Benedetti. Il PUL, visionando i filmati, sostiene che il colpo è stato deviato da un sasso che sembra sbriciolarsi prima di atterrare sulla jeep. Questa teoria sembrerebbe spiegare come il proiettile fosse in realtà stato sparato verso l'alto e scheggiandosi abbia colpito Carlo Giuliani. Una teoria smentita dai fatti, il perito Carlo Torre. Io mi sono occupato essenzialmente delle microtracce, dei balistici poi insieme si sono occupati loro direttamente della traiettoria. Ho trovato delle tracce su un frammento di proiettile che facevano pensare che avesse battuto contro del materiale per edilizia. Abbiamo poi avuto a disposizione delle tracce dei materiali per edilizia che in quel frangente venivano scagliati e sono simili, questo non vuol dire che siano quelli però. Nonostante la diversa ricostruzione dei periti nominati dalla famiglia Giuliani, il 2 dicembre del 2002 il pubblico ministero presenta la richiesta di archiviazione per legittima difesa. Si legge. Placanica aveva la giustificata percezione di essere in pericolo di vita. La pistola era mezzo idoneo a fermare l'aggressione. Il 5 maggio del 2003 il giudice dell'udienza preliminare Elena D'Aloisio dispone l'archiviazione del procedimento sulla morte di Carlo Giuliani. Il giudice dottoressa Elena D'Aloisio, letta la richiesta di archiviazione depositata dal PM nel procedimento in intestazione nei confronti di Placanica Mario e Cavataio Filippo, letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositato dai difensori delle persone offese, dichiara infondata l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero. Un'archiviazione che non piace a molti. Giuliano Pisapia, avvocato. Era un'archiviazione purtroppo già annunciata dall'inizio dal Procuratore della Repubblica. Fin dall'inizio si è capito che si voleva archiviare questa morte sicuramente non accidentale e di cui si vierono forti e fondate responsabilità sia da parte di chi ha sparato sia da parte in generale dei comandi di chi ha gestito le forze dell'ordine dei giorni. La madre di Carlo, Heidi Giuliani, continua a cercare ancora oggi una verità plausibile sulla morte di suo figlio. Penso dell'archiviazione tutto il male possibile, nel senso che l'archiviazione è stata fatta per non cercare e per non dire la verità. Io non ho paura della verità, penso che qualcun altro abbia invece paura della verità. Quello che desideriamo di più insieme al padre di Carlo, insieme alla sorella di Carlo, insieme a tutto il movimento, è un processo perché si dica la verità. Placanica non ha sparato mio figlio. Sì, io lo considero un'altra vittima, non vittima di mio figlio, ma vittima dei suoi superiori. Forse io pecco di presunzione, perché se non abbiamo ancora in un'aula di tribunale verità e giustizia per Piazza Fontana, forse io pretendo troppo. Pretendo di avere un paese veramente democratico. 5 anni dopo i fatti di Genova restano i ricordi delle devastazioni, degli scontri di piazza, dei black bloc, delle repressioni delle forze dell'ordine alla scuola Diaz e a Bolzaneto, immagini e suoni di violenze che non vorremmo più vedere e sentire in Italia. Thank you. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dviacchessi@radio24.it.